atto di adorazione, quando vi salutate reciprocamente, cari sposi, e vi date il buongiorno o l'ultimo complimento, la buonanotte, voi adorate il mistero di Dio, che ha voluto l'uomo maschio e femmina, e che i due fossero uno solo, come in Cristo, due nature e un'unica persona. Natura divina, natura umana, sposate nella unica persona del Figlio di Dio. Quanto è difficile cavar di bocca a certuni che hanno il bronzo un complimento, un saluto. Ma che idee hanno queste persone di se stesse? Sono persone tronfie che ti guardano dall'alto in basso. Fanno pena. Perché c'è in ciascuno di noi una dignità divina, ma che non si esercita guardando dall'alto in basso in senso di disprezzo, ma si guarda questa dignità e la si esalta guardando dal basso in alto a Dio, con la stretta di mano. Quel favore, quel grazie, quel buongiorno, quel sorriso fatti all'uomo raggiungono le altezze della divinità. E vi ripeto, tutto quello che farete all'ultimo povero, miserabile, che è caduto lì sulla strada, perché non ti fermi? Perché non chiami la polizia? Perché non lo soccorri? Gli dà fastidio un giorno o l'altro? Su, fermati, curvati su di lui, che simultaneamente tu ti innalzerai alla altezza di Dio. Qualunque cosa voi farete a questo povero diavolo incidentato sulla strada, come fatto a me, dal basso in alto. Mai guardare nessuno con la fronte sprezzante, chiunque esso sia. E ce lo insegna stupendamente il nostro Papa. L'avete mai pensato quante volte rischia la vita in quei famosi viaggi apostolici? Quante volte ha rischiato la vita avvicinando i lebbrosi? E qualche medico che lo accompagnava diceva: Santo Padre, non li tocchi! Oh! Non ditemi più queste cose. Non mi appartengo. Il Papa non si appartiene. È del lebbroso, come di chi è attillato, pieno di salute e ben vestito. Ma Santo Padre, che vuoi che la portiamo in quella borgata là, e tutta gente affamata? Vado a vedere cosa significa aver fame. Lasciatemi andare. Quando abbiamo qualche dubbio sulla fede, non andiamo a comprare libri, che non occorre. Pigliate la macchina, andate a Verona, quanti ricoveri per vecchi ci sono. E quanti vecchi non hanno nessuno che va più a trovarli? Su, vacci a portare un sacchetto di biscottini, una boccettina di acqua di cedro, un saluto. Ma io non conosco nessuno, non occorre conoscere le persone per nome. Sul loro volto tu vedrai il volto di Dio. Tutti i tuoi dubbi sulla fede sono spariti. Se non scopriamo il mistero di Dio in noi e nei nostri fratelli, parenti, amici e non amici, sarà difficile che noi scopriamo il mistero di Dio. Se volete fare amicizia con Dio, sentire intimo e vitale questo legame con Lui, vivete nella carità fraterna, nell'armonia dei cuori, sappiate compatirvi l'un l'altro, marito, moglie, sappiate educare i figli con la pazienza di Dio. Sappiate dividere il vostro pane, che si moltiplica dividendolo, con chi non ne ha abbastanza. Sappiate imporvi un po' di austerità, risparmio. Ho sentito dire da uno di noi, sa che i miei figli spendono l'80% dello stipendio nell'abbigliamento. Ma che sbaglio enorme. L'80%. Ma è possibile? Sì, sì, mi ha detto qualcuno che ha dentro alle denunce dei redditi. vediamo che ci sono crisi di fede, perché c'è crisi di carità, di amore, di pazienza, di rispetto, di aiuto, di servizio. So di un carissimo insegnante, professore, che ha passato il valico degli 80 anni, ma si è offerto a far scuola ai nostri piccoli di San Massimo. E si sente ringiovanito come un ragazzo che si prepara alla cresima o al matrimonio. Ma sono miracoli, sì, i miracoli. Ma se non scopriamo il mistero di Dio dentro di noi e dei nostri prossimi, invecchiamo troppo precocemente. È Dio il mistero della vita. E il mistero della vita è Dio. Dio è vita. La vita è Dio. In queste ore di ritiro spirituale, approfittatene per rivedere, passare i concetti della vostra testa circa la vostra persona, innanzitutto, la persona della moglie, se avete i genitori, la persona del papà, della mamma, la persona delle vostre figlie o figli. Ripassate un po', cosa pensate di loro? Pettegolate, criticate, calunniate, spesso e volentieri. Ciò significa che il legame intimo e vitale con Dio ha di là da venire. Le notizie tragiche ti divertono alla televisione? Ti divertono sul giornale? C'è chi va divertito per queste sparatorie, per queste violenze, per questi sequestri, per questi delitti? Oh, andar divertito per queste follie? Segno che il tuo rapporto con Dio non è né intimo né vitale. Perché il rapporto intimo e vitale con Dio educa all'amore della vita. E più uno diventa santo, amico di Dio e amico degli uomini. Tanto più amico di Dio quanto più amico degli uomini e tanto più amico degli uomini quanto più amico di Dio. Non si può dividere questo amore. È un fuoco formato di due fiamme inseparabili. Tanto noi crediamo in Dio quanto lo adoriamo e serviamo nei nostri fratelli.